Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne per il biennio 2021-2023. Il piano strategico sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 ripropone la struttura del piano precedente con un'articolazione in quattro assi tematici: 1. Prevenzione, 2. Protezione e sostegno, 3. Perseguire e punire, 4. Assistenza e promozione, secondo le linee indicate dalla Convenzione di Istanbul, a ciascuna delle quali si ricollegano specifiche priorità. Quanto alla prevenzione, le priorità sono l'aumento del livello di consapevolezza nella pubblica opinione e nel sistema educativo e formativo sulle cause e le conseguenze della violenza maschile sulle donne, il coinvolgimento del settore privato, social, piattaforme, mass media, sul ruolo di stereotipi e sessismo, anche in relazione alla cyberviolenza e alla diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. La promozione del empowerment femminile, l'attivazione di azioni di emersione e contrasto della violenza contro donne vittime di discriminazione multipla, il rafforzamento per la prevenzione della recidiva per uomini autori di violenza, la formazione delle figure professionali che, a vario titolo, interagiscono con le donne vittime e con i minori nel percorso di prevenzione, sostegno e reinserimento. Poi il raccordo delle misure normative anche nell'ambito della prevenzione della vittimizzazione secondaria. Sul versante della protezione e del sostegno alle vittime, le priorità sono la presa in carico delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita, l'attivazione di percorsi di empowerment economico-finanziario, lavorativo e autonomia abitativa, il monitoraggio ed il miglioramento dell'efficacia dei percorsi rivolti alle donne che subiscono violenza, attivi presso le aziende sanitarie e ospedaliere, il potenziamento della linea telefonica nazionale gratuita antiviolenza 1522, la tutela e il sostegno psicosociale delle dei minori vittime di violenza assistita, l'implementazione di soluzioni operative per garantire l'accesso ai servizi di prevenzione, sostegno e reinserimento, in particolare per le donne vittime di discriminazione multipla, migranti, richiedenti asilo e rifugiate. Riguardo all'asse perseguire e punire, le priorità sono garantire procedure e strumenti per la tutela delle donne vittime di violenza che consentano un'efficace e rapida valutazione e gestione del rischio di letalità, di reiterazione e di recidiva. Definire un modello condiviso di approccio, gestione e valutazione del rischio all'interno del reparto sicurezza. Migliorare l'efficacia dei procedimenti giudiziari nell'applicazione di misure cautelari e della sospensione condizionale della pena. Definire linee guida per l'analisi e il monitoraggio qualitativo e quantitativo degli interventi svolti nell'ambito dei programmi per uomini maltrattanti. Infine, nel campo dell'assistenza e della promozione, le priorità sono l'implementazione del sistema informativo integrato per la raccolta e l'analisi dei dati sul fenomeno, l'implementazione di un sistema di monitoraggio e valutazione a livello nazionale degli interventi, delle politiche, delle attività e delle risorse, la predisposizione di linee guida in accordo con le regioni per uniformare a livello nazionale gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati dei centri antiviolenza, dalle reti territoriali e dal sistema sociosanitario. la costruzione di luoghi stabili di confronto e programmazione per gli organismi politici, le istituzioni e le strutture amministrative, la comunicazione e degli strumenti normativi e degli interventi operativi in sostegno alle donne vittime di violenza maschile.